Ti conosco da una vita, siamo cresciuti insieme, avventure che a raccontarle non paiono vere. Poi come ogni politico, con chi lo vota mi hai tradito, e solo dopo che mi hai fregato l'ho capito. Chiamami amico, se mi posso fidare, non è un caso che il mio unico amico sia un cane, che non capissi le donne è noto a tutti, è chiaro a pochi, ma che non volessi essere loro amico evidente a chi solo come me è passato come una fraterna aspirina, mentre dentro ho immaginato quanto fosse grande quella vagina. Chiamami amico, se non ci sono istinti sessuali, io infatti per amici ho solo e soltanto animali. Ma di una cosa son sicuro, e da una parte ne vado fiero, non sono mai andato d'accordo con la ragione, pertanto spero di non aver mai dato modo di apparire come un ragazzo serio, perché che la ragione ha sempre ragione non è per niente vero. Chiamami amico, se non ho mai ragione, e nonostante questo io rimango per te sempre il migliore. Approfitto di questa canzone per dirvi una cosa sconvolgente. Sono stato molto amico di Dio, quel birbantello dell'onnipotente. Pregare è curativo, meglio essere ascoltati da un amico in persona, perché se mi devo fidare preferisco farlo di un vizioso come me. Chiamami amico, se ti posso guardare, mentre ti parlo se vuoi, mi puoi abbracciare.